Bufala in tavola di Nicoletta Carbone. Buongiorno, buona domenica, come ogni giorno a mezzogiorno siamo di nuovo insieme. Sono Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana, oggi però in veste di cercatrice di bufale, fake news, i falsi miti sul cibo che spopolano soprattutto sul web e di cui siamo al tempo stesso fruitori e produttori, a volte inconsapevoli. Il risultato, cari amici, è che navighiamo in un mare di bufale e spesso, frastornati da mille richiami, perdiamo la rotta. Quindi l'appuntamento di domenica vuole cercare di fare chiarezza, di riportare la verità a tavola, perché sappiamo che siamo quello che mangiamo, ce l'hanno ripetuto tante volte, però ce ne hanno date da bere a tante. Allora cerchiamo di riportare la chiarezza a tavola per fare delle scelte più salutari, per fare delle scelte più consapevoli, chiare, e anche per riappropriarci di quella preziosa capacità di valutare il nostro benessere. Siete pronti? Allora avanti tutta con l'appuntamento della domenica. Naturalmente potete sempre scrivermi e diventare anche voi cercatori di bufale nel vostro quotidiano, in rete, insomma datevi da fare. Ma chiarezza per chiarezza, diciamola tutta. Ci piace anche credere a queste bufale, ci piace pensare che ci sia quell'alimento che magari mangiamo e ci scioglie il grasso, ci fa digerire, oppure ci regala la giovinezza o ci fa diventare i capelli più forti, oppure ci piace anche individuare quell'alimento che ci fa malissimo, da cui dobbiamo tenerci alla lontana. Ecco, insomma, forse la verità non sta mai tutta da una parte o dall'altra. Noi cercheremo comunque con l'aiuto dei nostri esperti di mettere, riportare la scienza nel piatto, ma prima cerchiamo di capire perché queste bufale ci piacciono così tante. Ci facciamo aiutare da un esperto, da un sociologo della comunicazione, che ha appena scritto un libro, sembra che l'abbia scritto per noi, per la bufala in tavola. Si intitola Io credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news. L'autore si chiama Andrea Fontana. Benvenuto, benvenuto nuovo cercatore di bufale. Grazie Nicoletta, buongiorno. Allora, intanto, per chiarezza, vi ricordo anche, dico anche l'editore Koepli. Ma, Andrea, perché ci piacciono così tanto le bufale e ci crediamo, nonostante il buon senso ci dica che, insomma, non può essere così, non è mai così facile, non è mai così tutto bianco e tutto nero, alimenti miracolosi con delle proprietà straordinarie, però ci piace crederlo. È così, Nicoletta, perché sono ormai un cibo per la nostra anima, lasciami usare questa metafora culinaria, insomma fanno parte della nostra dieta culturale, anche se molto spesso non sono vere, noi ci crediamo, soprattutto perché abbiamo bisogno oggi di una dimensione del fantastico molto forte, abbiamo bisogno di questa dimensione che ci ispiri, ci emozioni, ci faccia sognare. E quindi il nostro approccio alla comunicazione oggi si basa sul fantastico, anche nel cibo. Pensa, ti faccio due esempi accaduti recentemente. Uno è accaduto sia a Roma che a Milano nel marzo più o meno 2017, quando moltissime persone si sono messe in fila, a fare file interminabili per mangiare il pollo fritto. Durante l'inaugurazione di negozi temporanei di Los Pollos Hermanos, che ovviamente è una catena di fast food che non esiste nella realtà, ma fa parte della serie Breaking Bad, non so se l'hai mai vista. Certo. Ecco, e moltissime persone, sia a Milano che a Roma, hanno fatto la fila per andare a mangiare il pollo fritto. Allora, se qualche nostro amico della domenica ha fatto la fila, mi scriva, che così. Insomma, dobbiamo veramente così dire la verità. Noi vogliamo riportare la verità a tavola, ma dobbiamo anche raccontare e raccontarci che cosa stiamo facendo, che cosa stiamo credendo. Forse avete fatto la fila anche voi per mangiare lo Pollos Hermanos. Tu non c'eri però, Andrea. No, io non ce l'ho fatta perché ero via, se no sarei andato sicuramente, perché è interessantissimo come fenomeno. Il pollo fritto è solo una scusa, la verità è che vogliamo partecipare a una simulazione fantastica. Sappiamo benissimo che il pollo è una scusa, ma ci piace, oggi è molto diffuso anche nel marketing questo atteggiamento, ci piace partecipare ad esperienze che ci facciano sognare in qualche modo, o ci intrattengano, o ci emozionino, o ci ispirino, insomma. E quindi questa è una dimensione molto importante nella comunicazione oggi. L'altro esempio che volevo farti è: pensa al cibo per gli animali. Eh sì. A come ormai anche il cibo per gli animali sia assolutamente una simulazione, no? Un'estensione fantastica della nostra esperienza culinaria. Trattiamo il cibo degli animali come se fosse il cibo per noi, se ci certo, pensi. E trattiamo anche gli animali come se fossero persone. Esattamente. E quindi le fake news non sono qualcosa che ci fa necessariamente male, sono una dimensione che fa parte della nostra dieta culturale, come esatto. Mi è piaciuta molto. Ma senti Andrea, per funzionare, per fare presa, per in qualche modo mantenere, no? Mantenersi nel tempo, quali ingredienti deve avere una notizia, una bufala, per diventare una bufala? Perché noi siamo abituati, la saggezza popolare ha tramandato dei consigli, alcuni dei quali, sai, i famosi consigli della nonna, però hanno avuto il bollino della ricerca. Gli studi, ad esempio, hanno dimostrato che alcune cose che i proverbi tramandano hanno una parte di verità o sono vere in parte. Attualmente però ne abbiamo talmente tante di queste notizie che insomma è facile perdere la rotta, ma alcune rimangono, diventano prima novità, mode, e poi diventano proprio parte del nostro bagaglio culturale. Evidentemente alcune sembrano confezionate meglio di altre, hanno un appeal e tutto un profilo capace di sedurre. È assolutamente così, infatti diciamo ci sono degli ingredienti che sono molti, forse i tre più importanti sono il potere, nel senso che noi siamo attratti da quei prodotti o da quei cibi che vengono raccontati o presentati come potenzianti. Sì. Pensa a tutta la retorica che c'è intorno ai prodotti che innalzano le tue difese o ti danno potere in qualche modo intorno alla tua dieta, no? Sì. Poi la salvezza. Pensa a tutti quei cibi che in qualche modo ti curano, salvano dallo stress o da disagi vari. Tu stessa prima dicevi ci piace credere al prodotto che ci rende i capelli meno bianchi, no? E certo. Ci salva quindi dall'invecchiamento. E poi il mistero. Oggi va molto di moda, no? Tutta una serie di cibi raccontati in modo esotico, quasi esoterico, strano, no? Quasi fossero magici. Ecco, queste tre, chiamiamole, linee di racconto sono molto diffuse per creare realtà o verità alternative intorno al cibo, che non vuol dire che non siano vere necessariamente, ma sono come se fossero un ipercontenuto, cioè qualcosa che si aggiunge al semplice certo. prodotto e lo arricchisce. Allora, ci hai dato anche la ricetta, Andrea, per creare delle leggende metropolitane, delle fake news capaci di così mantenersi nel tempo. Intanto io voglio ricordare il titolo del tuo libro e voglio già invitarti per le prossime puntate, perché ti incaricherei di, come sociologo proprio della comunicazione, di andare a vedere, trasformandoti in cercatore di bufale, che cosa le bufale emergenti, così le smascheriamo prima che mettano radici. Ricordo il titolo del tuo libro, Io credo alle sirene, come vivere e bene in un mare di fake news, Oepli editore. Andrea Fontana, grazie e complimenti. Grazie a voi Nicoletta. E adesso noi facciamo un attimino di pausa, restate con noi, potete come sempre scriverci a labufalaintavola@radio24.it e noi manderemo le vostre domande ai nostri esperti per aiutarvi a vederci chiaro e a portare in tavola gusto e salute. Cosa ti preparo? La tavola, prendo le pizze Roncadin. Pizze Roncadin, nel banco freezer. Vi presenta... La bufala in tavola. Siamo tornati insieme, sono tornata con voi. Sono Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana, 7 giorni su 7, Infatti oggi è domenica. Oggi è domenica, in tutte le case la domenica, in molte case la domenica si invitano degli amici, si mangia insieme, si preparano delle cose molto buone e noi avremo tanti amici che ci verranno a trovare e parleremo proprio di alimentazione, parleremo di cibo, di quello che acquistiamo, cuciniamo e portiamo sulle nostre tavole perché vogliamo fare chiarezza. Sappiamo che il cibo è importante perché il cibo è gusto, piacere, relazione, sappiamo che il cibo in qualche modo influenza la nostra salute, il nostro stare bene, il nostro benessere, ci dà energia, ci dà carica, ci dà voglia di vivere, ci dà vita e ci dà anche in qualche modo un aiuto per proteggerci dalle malattie. Ma diamo la parola ai numeri. Che cosa sappiamo esattamente? Che cosa la ricerca sa della relazione che lega l'alimentazione alla salute? In linea con noi un grande amico delle nostre trasmissioni, ci ha accompagnato in tanti percorsi, ha aggiunto con i suoi libri, con le sue informazioni, con le sue partecipazioni alle trasmissioni di Radio 24, ha aggiunto veramente informazioni di qualità e ha aiutato quindi tanti di noi a adottare uno stile alimentare sano, ma con il bollino, come dico io, della ricerca. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, grazie per questa splendida introduzione, mi fa molto piacere risentirvi. Medico e anche coach della salute, primo medico certificato di medicina anti-aging in Italia. Dottor Ongaro, in diverse occasioni quando abbiamo parlato dell'importanza di adottare uno stile alimentare, quindi siamo andati oltre quella parola dieta che spesso sentiamo nominare, che fa riferimento a qualche cosa di restrittivo che ci fa dimagrire. In tante occasioni abbiamo sottolineato quanto un'alimentazione equilibrata possa aiutarci a stare bene. La risposta di tanti nostri ascoltatori è stata: bene, ma io non posso vivere tutta la vita mangiando da malato per poi morire sano. E io aggiungo, già morire sano sarebbe una bella cosa, perché morire malato comporta grandi sofferenze. Ma chiudo velocemente la parentesi. Dottor Ongaro, c'è ancora ancora molto diffusa l'idea che l'alimentazione che fa stare bene deve essere un'alimentazione sciapa, che ci costringe a delle rinunce. Di che tipo di alimentazione noi vogliamo parlare? Soprattutto, che rapporto ha veramente e misurato con la nostra salute? Beh, insomma, non c'è ombra di dubbio che nelle ultime decadi si sia ormai chiaramente delineato un quadro di relazione forte tra come mangiamo, come viviamo in senso anche più generale, perché sappiamo anche il ruolo dell'attività fisica, della gestione dello stress e il mantenimento della salute, e credo che su questo ormai non ci sia più nessun dubbio. Credo però che vada fatta, visto che parliamo appunto anche di fake news e di bufale, immediatamente una grossa distinzione. Questo non significa che con la dieta io posso curare ogni malattia, che è una delle tante cose che si sente molto spesso dire. Quindi che l'alimentazione e lo stile alimentare abbia un effetto preventivo sulla genesi delle patologie, credo che non ci sia dubbio. Credo anche che negli ultimi anni si sia allargata molto la gamma delle patologie che possono essere prevenute grazie all'alimentazione, quindi non più soltanto un discorso legato all'obesità, al diabete, alle patologie metaboliche, non più soltanto le malattie cardiocircolatorie, ma anche quelle per esempio neurodegenerative di cui sempre più persone ovviamente hanno paura, e certamente anche le patologie oncologiche. Il salto che a volte si fa e non è corretto è dire: ah, allora se la nutrizione può fare un'azione preventiva, può avere un'azione preventiva su così tante malattie, significa che può curarle. No, non significa che può curarle. L'effetto dell'alimentazione è un effetto lento, sottile e a piccole dosi, ed è anche logico che sia così. Quando noi scegliamo di mangiare male, non è che questo abbia una conseguenza negativa immediata sulla nostra salute, ci vogliono a volte decadi, quindi è un effetto sfumato importante, ma non è un effetto terapeutico diretto come quello che può avere un farmaco. Detto questo, ribadisco il concetto che ormai molte delle patologie che colpiscono nei paesi occidentali, soprattutto in età avanzata, vengono considerate delle patologie da stile di vita, quindi credo che ormai lo sappiamo tutti e il vero tema è come fare ad aiutare le persone a cambiare questo stile di vita, appunto anche lavorando su queste false credenze e false percezioni che l'alimentazione sana deve essere per forza un'alimentazione assolutamente deprimente. In realtà è un'alimentazione semplice, non significa che debba essere un'alimentazione cattiva, un'alimentazione semplice con meno cibi super raffinati, super elaborati, super conditi, un'alimentazione genuina è quello che ha certamente un effetto preventivo più profondo, anche stando un po' alla larga da tutte le scelte estreme di eliminazione completa di categorie intere di alimenti, anche queste vanno molto di moda, ma in realtà dati così certi non ce ne sono. Ecco, esatto. Dottor Ongaro, qual è la bufala o quali sono le bufale su cui lei ha così è più impegnato a combattere? Perché immagino che incontrando le persone che si rivolgono a lei, magari con l'obiettivo di perdere peso oppure di adottare uno stile alimentare più sano, lei debba andare in qualche modo a capire se la loro alimentazione è guidata magari dalla moda del momento, da un sentito dire, dalle notizie che prendono da internet. Allora, detto in maniera molto diretta, la cosa che a me fa più paura come piace è a noi. È il paziente che bypassa o che salta o che desidera saltare un percorso terapeutico importante credendo di poter affrontare la guarigione da una patologia seria esclusivamente con il cibo. E questo il caso più eclatante ovviamente sono i pazienti affetti da patologie oncologiche, ma non solo, ci sono tante altre sfumature di patologie comunque serie in cui i pazienti a volte vengono un po' deviati verso la strada del no, elimina tutte le terapie che puoi affrontare tutto con il cibo. Ecco, io sono sempre molto intimorito da questa cosa, perché in realtà la bellezza di tutta la ricerca più recente si fonda proprio in realtà sull'azione sinergica di una terapia farmacologica o chirurgica che sia fatta bene in maniera eccellente e precisa e un cambiamento di stile di vita che lavori su aspetti differenti della biochimica del corpo, importanti ma non così determinanti sulla guarigione in quanto tale da giustificare un abbandono, no, di un percorso terapeutico. E questo purtroppo è una cosa che oggi in un certo senso si sente spesso. E dunque se mi chiedete qual è la, chiamiamola così, la tendenza sbagliata che mi fa più paura, è certamente questa, perché a volte questa davvero può compromettere le chance di guarigione di una persona, insomma. E quindi, dottor Ongaro, l'alimentazione non può sostituire le terapie, stiamo parlando per persone che devono seguire delle terapie perché hanno delle malattie croniche, non è il cibo non cura, può sicuramente in qualche modo favorire magari esatto. Il percorso terapeutico. Esatto, infatti io dico che la posizione corretta su un tema come questo è di dire, sostanzialmente tutte le patologie, in particolare quelle cronico-degenerative, sono sicuramente aiutate, o meglio il percorso di guarigione o il percorso, diciamo, di gestione della cronicità è certamente aiutato da uno stile alimentare corretto. Questo non significa che questo stile sia risolutivo, quindi io credo che la soluzione per questo tipo di persone sia sempre il seguire i criteri classici delle terapie proposte, con in aggiunta un lavoro sullo stile di vita che, ribadisco, non è soltanto nutrizionale ma è anche la calibrazione di un'attività fisica più adatta possibile al paziente, l'inserimento di tecniche di rilassamento, ecco, il lavoro queste cose che ci impegnano, dottor Ongaro, questa è una delle altre ragioni per cui magari crediamo alle bufale. Ci piace di più pensare ad un alimento miracoloso che ci aiuti a risolvere il nostro problema, non ci impegni molto e a cui affidiamo tutti dei poteri che non sono assolutamente provati dalla scienza. Per molti di noi la ripresa significa rimettersi in forma, far perdere quindi centimetri al girovita o calare di peso. Per alcuni la ripresa è un momento molto faticoso in cui recuperare energie, e qua la tendenza a affidarsi anche qui a sostanze integratori capaci di così farci ricordare tutte subito le cose, l'attenzione è molto alta. Ci fermiamo perché il dottor Ongaro ha da dirvi delle cose importanti, perché oggi, come ogni domenica, andiamo a caccia di bufale. State ascoltando un programma offerto da Danacol. Grazie ai suoi steroli vegetali riduce il colesterolo in modo naturale fino al 10% in 3 settimane. Funziona! La bufala in tavola. Buona domenica a chi mi sta ascoltando, sono Nicoletta, sono la vostra salutare ossessione, vi ossessiono anche alla domenica, e quindi invitatemi a pranzo con voi o venite a pranzo con noi. In linea con noi abbiamo il dottor Filippo Ongaro, che ci aiuta a mettere, a riportare la chiarezza in tavola. Il cibo ha sempre giocato un ruolo predominante e importante all'interno della nostra società, è stato sicuramente vitale nell'evoluzione, ma mai come oggi il cibo è stato oggetto di così grande attenzione, posso dire quasi un'ossessione. E questa eccessiva attenzione, come in ogni altro aspetto della vita, porta con sé delle esagerazioni dei rischi. Ecco che fioriscono le bufale, come le volete chiamare, fake news, leggende metropolitane, sghiribizzi, mode che arrivano dall'altra parte dell'oceano, oppure anche nostrane, le smascheriamo passo dopo passo, domenica dopo domenica. Naturalmente aspetto anche quella che pescherete anche voi in rete, o la bufala in cui siete inciampate, che avete seguito, raccontatecela. Ma vorremmo anche riportare la verità a tavola, cercando di restituire ad alcuni alimenti che sono stati ingiustamente demonizzata la loro dignità. Dottor Ongaro, il progetto è molto ambizioso, ma ce la faremo. Ce la mettiamo tutta. Allora, molti di noi tornano e le vacanze ammorbidiscono, arrotondano e fanno salute anche quello, no? Lei sa bene che da qualche tempo siamo tutti ossessionati improvvisamente dal glutine. Il glutine è diventato il nemico di tutti, e se non è proprio provato, perché ci sono delle persone che hanno un'intolleranza permanente al glutine, sono le persone che soffrono di celiachia, che viene diagnosticata però con degli esami particolari. Adesso, un po' perché lo fanno i VIP, un po' perché a qualcuno dobbiamo dare la colpa, eccolo, l'abbiamo trovato, è il glutine, e quindi persone che assolutamente non avrebbero bisogno utilizzano dei prodotti gluten free, anche quello ci piace, no? Un po' di parlare un po' inglese. E quindi ecco, tra l'altro il consumo di questi alimenti e la vendita, perché tutte le mode poi generano dei fatturati interessanti. Dottor Ongaro, ma che cos'ha questo glutine che non ci piace più? Che cosa ci ha fatto? Diciamo che qua la vera, diciamo così, fake news o bufala è attribuire al glutine un ruolo nel sovrappeso, e quindi all'eliminazione del glutine una possibilità in più di dimagrire. Questo è assolutamente privo di alcun fondamento. Tuttavia, che ci siano delle ricerche che indicano nel glutine una potenziale azione infiammatoria a livello intestinale, questo invece è vero, anche potenzialmente in soggetti che non sono celiaci. Certamente questo non significa necessariamente eliminare tutti i cibi che contengono glutine, potrebbe essere sufficiente ridurne un po' la quantità, e non significa nemmeno passare così in toto all'utilizzo di cibi gluten free industrializzati. Esistono molti cereali e pseudocereali che sono naturalmente privi di glutine, e si può semplicemente aumentare un pochino l'introduzione di quelli e ridurre un po' invece l'introduzione dei classici cereali ricchi di glutine. Quindi sul dimagrimento certamente nessuna azione, su disturbi gastrointestinali a volte può esserci qualche connessione, può essere interessante esplorarla. Ecco il tassello che lei ci ha dato per capire qualcosa di più è che la verità non sta spesso mai o tutta a destra o tutta a sinistra, non c'è tutto il bianco, tutto il nero, e quindi questa lettura anche del glutine che molte persone cercano e tendono ad eliminare dalla dieta, ecco, non è eliminando il glutine che si dimagrisce. Mi sembra di aver capito però dal dottor Ongaro e anche da numerose puntate a cui abbiamo dedicato che abbiamo dedicato insieme a Deborah Cuore Denari, e quando abbiamo parlato di questa sensibilità al glutine, ci sono delle persone che ne sono sensibili, ma in questo caso è inutile riempirci la dispensa di prodotti gluten free, magari è meglio ridurre la quantità di glutine o dare la precedenza ad alimenti che ne sono naturalmente privi, dottor Ongaro ad esempio. Beh, il riso integrale ad esempio, ma anche tutte queste cose che vanno un po' più di moda oggi e che sono sicuramente interessanti, dalla quinoa al grano saraceno al miglio, sono esempi di alimenti che possono tranquillamente sostituire almeno parzialmente l'utilizzo per esempio della classica pasta o del pane, sì. Allora, lei ha nominato, l'ha nominata la quinoa, ma adesso non si vive più senza quinoa, meno male è arrivata la quinoa, in tutti i ristoranti c'è la quinoa con le verdure, i biscottini di quinoa e le gallette di quinoa, perché è molto proteica. Ma allora, abbiamo bisogno di inserire con una frequenza, così tanta frequenza, la quinoa? Che cosa ha di speciale? E possiamo vedere che cosa si nasconde dietro questo prodotto e se più il marketing, come era stato col Kamut, a spingerla, oppure se ha veramente delle proprietà che sono nutrizionalmente interessanti, perché no? Noi ci apriamo anche alle novità, all'integrazione, al mescolamento e quindi chissà, magari la svolta. Dottor Ongaro. Ma no, che abbia qualche proprietà interessante sicuramente sì, quella citata adesso, cioè di un contenuto proteico piuttosto alto, indubbiamente fa di questo alimento un'opzione. Certamente quello che invece dobbiamo appunto sempre così un po' sfatare è che un alimento possa effettivamente contribuire a un'azione, per esempio, non so, dimagrante. Ecco, non è così, cioè se io non vado a creare, intanto dovremmo, e qui ecco una piccola parentesi, stranamente le bufale, le fake news non sono mai qualcosa che propone un lavoro più faticoso, no? Sono sempre qualcosa che propone poca fatica. Certo. Infatti è facilissimo vederle, io non sono così preoccupato infatti di questo problema, perché in realtà si riconoscono da questo, la soluzione miracolosa è quasi sempre una soluzione finta, e qui sulla regolazione del peso è la stessa cosa, noi dovremmo prima di tutto preoccuparci di consumare di più facendo più attività fisica, questo è sacrosanto e tendiamo a dimenticarcelo. Poi ripeto, la quinoa ha credo qualcosa come 350 calorie per 100 grammi, quindi è esattamente identica a un piatto di pasta in termini di contenuto calorico, ha sicuramente un po' più di proteine, questo potrebbe essere utile per certi aspetti, soprattutto in quelle persone che tendono a fare un uso ridotto per esempio di proteine di origine animale, però anche qua non direi effetti miracolosi insomma. Nessun alimento ha un effetto miracoloso, è interessante invece capire quanto la combinazione degli alimenti, associarli, abbinarli, aggiunge gusto, ma potrebbe rendere anche più disponibile alcune sostanze che quegli alimenti contengono. E su questo poi sicuramente il dottor Ongaro ci darà una mano. Quindi abbiamo pensato, il glutine non aiuta a dimagrire, la quinoa è sicuramente più proteica, ma ha le stesse calorie, anche se sembra ormai parlare di calorie una bestemmia, della pasta. Ci sono non solamente alimenti, ma abitudini alimentari che seguiamo con l'intento proprio di dimagrire. Ad esempio, chi per dimagrire decide per un periodo più o meno lungo, fin quando ce la fa, insomma, di mangiare solo proteine. Dottor Ongaro. Allora, solo proteine è assolutamente sconsigliabile. La proposta è quella di aumentare un po' la quota delle proteine mangiando comunque buone porzioni di verdure e di grassi sani, riducendo invece una parte dell'apporto di carboidrati, questo può essere un approccio accettabile. Io sono dell'opinione che, diciamo, anche sul piano scientifico, in sostanza a lungo termine qualsiasi tipo di approccio nutrizionale, quindi diverse proporzioni tra grassi, proteine e carboidrati, se nel contesto di un aumentato consumo e un ridotto introito finiscono col dare un risultato, d'accordo? Però ci sono sicuramente dei dati che suggeriscono che una dieta un po' più alta di proteine, un po' più bassa in carboidrati, dà in genere sulla riduzione del peso un risultato un po' più rapido e con meno perdita perdita di massa muscolare. Questo è un punto non secondario, perché la perdita di massa muscolare incide sul metabolismo basale riducendolo, ed è uno dei fattori per cui con una dieta ipocalorica bassa in proteine si tende a recuperare peso molto in fretta. Dunque, sempre nel contesto però di dosaggi corretti, quindi non una dieta iperproteica, una dieta in cui c'è un dosaggio corretto di proteine e si apportano un po' più di calorie dalle proteine rispetto ai carboidrati, sempre comunque una dieta che sia ricca di verdure, può dare qualche risultato in più, in particolare appunto legato al fatto che si tende a perdere meno massa muscolare, e questo è un punto importante. Certamente anche qua le proteine non devono venire però dalla salsiccia, dal salame, cioè devono venire da proteine sane, in prevalenza pesce, carni magre, uova, perché altrimenti no, allora, beneficio non dottor c'è. Ongaro, a proposito, prima di salutarla, a proposito di pesce, quanto pesce le ha dato da mangiare sua mamma dicendo mangia che al fosforo diventi intelligente? Io non so se ho mangiato il pesce sbagliato, mia mamma me ne ha dato poco, adesso il fosforo abbiamo capito che non fa tutto, non ci rende più intelligenti, così come mandare i bambini che sono piccoli di statura magari a giocare a pallacanestro non li fa crescere miracolosamente, ma adesso invece si parla di omega 3, si ricavano dai pesci, sì. Hanno avuto grandissimo e stanno avendo naturalmente grande successo anche nel largo pubblico, tutti parlano di omega 3, ma attenzione, l'omega 3 lo troviamo nel pesce, ma lo troviamo nel pesce che non è di allevamento. Dottor Ongaro. Purtroppo qua si apre una parentesi, Nicoletta, molto complessa, che ha a che fare non tanto con le nostre scelte, ma con le scelte di chi gli alimenti li produce e ce li fornisce, e indubbiamente questo è vero, cioè il pesce è teoricamente, il pesce poi non tutto, il pesce azzurro è teoricamente ricco di omega 3, certamente uno dei pesci più citati per questo è il salmone, che però mi risulta essere quasi totalmente d'allevamento. È chiaro che quando cambio la modalità con cui nutro un animale cambia il suo metabolismo, tant'è che anche nelle carni che tipicamente vengono reputate come scarse in termini di apporto di omega 3, se l'animale è stato libero di pascolare in realtà non è così e gli omega 3 sono molto più alti. Dunque questo è un problema un po' complesso che apre da un certo punto di vista così all'opzione integrazione alimentare, dove non siamo certi di avere un apporto sufficiente tramite l'alimento, e c'è anche da dire che oggi infatti anche nella catena alimentare, sempre più nell'allevamento, vengono utilizzati integratori per compensare proprio queste problematiche legate all'alterazione della biochimica dell'animale in funzione di che cosa ha mangiato, insomma, quindi indubbiamente questo problema c'è. Dottor Ongaro, ma noi di problemi ne avremo sempre meno, perché avremo sempre lei con altri suoi colleghi che ci aiuteranno ad aprire gli occhi e a prendere consapevolezza. Cioè, un pochino di fatica nell'informarsi, di andare a leggere le fonti, noi cerchiamo di così risparmiarvela, vi omogeneizziamo le fonti autorevoli direttamente dai nostri esperti, e quindi cerchiamo di darvi sull'alimentazione notizie che sono provate da studi scientifici. Dottor Ongaro, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona domenica. Grazie a voi e a presto. Saluto il dottor Ongaro, il dottor Ongaro va, e invece voi, se avete delle cartelle già che girano per casa, si riparte con la scuola, e noi andiamo ad aprire la cartella perché parliamo di merende. 57esimo Salone Nautico, dal 21 al 26 settembre a Genova. Vi presenta... Dai, Deborah, racconti la borsa tutto il giorno, dammi un titolo. È meglio il petrolio che sale o il dollaro che scende? È arrivato, se lo sapessi avrei gran soldi in Svizzera, per cui mi servirebbero i tuoi consigli per fare la voluntary disclosure. La voluntary disclosure è meravigliosa, ma ne abbiamo tante di questioni da chiarire agli ascoltatori. Sì, perché non sono temi difficili, noi dobbiamo essere autorevoli. E leggeri. Sai, dobbiamo parlare con quella certa autorevole leggerezza. Bravo! Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Tutti i giorni alle 11 su Radio 24. La bufala in tavola. Ripartono le scuole e noi mamme, i genitori, i nonni ripartono con i dubbi, che cosa metto in cartella al ragazzino perché poi magari non mangia, è così gracilino, oppure a metà mattina gli viene il languorino e non ha fatto colazione, come potrà stare attento se ha il pancino vuoto? Allora, li abbiamo avuti tutti questi dubbi, a volte siamo cadute in dei tranelli. Cerchiamo anche in questo caso di fare chiarezza, perché le scuole ricominciano, quindi bisogna riprendere il passo, e lo facciamo con Lucilla Titta, che è ricercatrice nutrizionista e autrice di un libro che vi è piaciuto molto, quello che ha scritto con Eliana Liotta, si intitola La dieta smart food, Rizzoli Editore. Buongiorno dottoressa Titta, bentornata. Buongiorno. Alla bufala in tavola, anche per i bambini cerchiamo di smascherare le bufale, le fake news, quegli atteggiamenti, quei comportamenti, quei modi di pensare che in qualche modo nuociono alla salute o perlomeno non fanno bene. Dottoressa Titta, anche a lei il compito di smascherare una leggenda metropolitana, un'abitudine che insomma non è tanto salutare. Sì, l'abitudine in realtà è proprio più un'abitudine, è un circolo vizioso che si crea spesso nel periodo scolastico che riguarda appunto l'alimentazione dei bambini. Questo si crea perché spesso, lo sappiamo come genitori, i bambini non hanno tanta voglia di mangiare la mattina e quindi si ha la tentazione di supplire a questa mancanza della colazione con delle merendine molto dolci, molto grasse, o comunque dei prodotti da forno molto perché così abbiamo la certezza che li mangiano, una bella, esatto, poi sono anche buoni, no? Una bella trancia di pizza, ecco. Molto appetibili, e di conseguenza però in realtà facciamo un danno, perché poi i bambini non avranno fame all'ora di pranzo e quindi eviteranno gli alimenti che sono magari meno appetibili o che preferiscono di meno, che purtroppo sono spesso le verdure o la frutta fresca, e di conseguenza mangeranno meno perché sazi da questa merenda di metà mattina troppo calorica. La conseguenza di questo comportamento arriva anche il pomeriggio, perché Escono affamati, avranno fame, ecco. E quindi le mamme spesso arrivano all'uscita della scuola, magari anche in vista di un'attività fisica, di uno sport, con anche qui una merenda del pomeriggio troppo calorica. Comunque possiamo dire, dottoressa Titta, non vorrei sembrare la discendente di Erode, che anche se saltano una merendina non capita nulla? No, assolutamente. Non svengono, non diventano, non prendono il voto brutto, non hanno il calo dello zucchero, non succede assolutamente, niente. Assolutamente. Bisogna cercare intanto di avere più fiducia nella ristorazione scolastica, che in Italia si sa è molto carente, insomma, nei genitori. Sì. E, perché sono tutti professionisti che seguono linee guida e che preparano pasti che comunque sono bilanciati e ricchi di alimenti comunque. Ecco, però come mai ai bambini però spesso la mensa scolastica non piace? L'alternativa è un dolce, una pizza formaggiosa, cioè qualcosa di molto sapido o molto dolce. Chiaramente piatti più semplici, verdura, frutta fresca sembrano meno appeal. Però come mai, io faccio la mamma, come mai a casa mangia e in mensa no? E allora cosa faccio? Certo, ci sono magari, i ragazzini possono essere selettivi in determinate fasce d'età e non mangiare certi tipi di alimenti, quindi mentre in casa è una cosa più gestibile, scegliere gli alimenti che piacciono, in una mensa scolastica lo è meno. Però non bisogna scoraggiarsi, e comunque loro spesso ci sono piatti semplici che piacciono un po' a tutti, come la pasta al pomodoro, adesso faccio un esempio, piuttosto che il pollo con le patate. Quindi bisogna cercare di spingerli. Anche questo fa parte dell'educazione, cioè si cresce anche imparando a mangiare in mensa, e soprattutto si cresce anche magari facendo un progetto con i genitori, con la scuola, di fare un corpo classe in cui ad esempio i genitori si mettono d'accordo di dare delle merende che siano, che rispettino alcuni criteri, quindi che siano naturali, che non abbiano tanti zuccheri aggiunti, in modo che non si crei quella competizione tra i bambini, perché se il bambino vede il compagno che si mangia una bella fetta di pizza è difficile che si mangi le tremandorle o la mela. Dottoressa Titta, io vorrei che lei in questi ultimi paio di minuti ci facesse un suggerimento di una colazione, una merenda di metà mattina, però che abbia un po' di appeal, e la merenda per all'uscita di scuola. Così noi ci prepariamo. Per la colazione, una colazione dolce, suggerisco, perché sono molto di solito apprezzati dai bambini, cereali soffiati o cereali in fiocchi con il latte, che può essere vaccino, che può essere invece una bevanda vegetale, come si preferisce. Bisogna seguire molto il gusto dei bambini, ma soprattutto il mio consiglio è ritagliare del tempo, perché spesso si salta la colazione perché si è di corsa, bisogna vestirsi, e comunque i bambini non sono invogliati a sedersi a tavola e fare una colazione, quindi a trovare del tempo. O altrimenti una colazione salata, perché no? Io nella mia esperienza personale vedo che, per esempio, pane e olio, del pane integrale tostato con dell'olio extravergine, è una cosa gradita ai bambini, che magari dolce certo risulta un po' stucchevole. Quindi o dolce o salata, fatele, prendetevi il tempo. Nella cartella, esatto, dottoressa Titta? Nella cartella, diciamo, spuntini frugali, che può essere appunto o frutta fresca o frutta a guscio, quindi noci, mandorle, arachidi, sempre non salate assolutamente, oppure frutta essiccata, a molti bambini piacciono le albicocche essiccate. Sono ottime questa, ricoperte di cioccolato fondente, no, perché sennò, anche, possiamo no, anche fare delle piccole, delle piccole barrette casalinghe, sono molto divertenti, vi metteremo la ricetta. Certo. E andiamo invece alla merenda, fino alla scuola si butta la cartella, se c'è il pomeriggio di giochi, e ahimè anche di studio, oppure di attività sportiva, che l'arriva la mamma o si torna a casa, cosa facciamo trovare? Stessa cosa, frutta fresca, perché in realtà non c'è bisogno di un apporto calorico in più rispetto al pranzo, alla colazione e a un eventuale spuntino di metà mattina. Non è veramente necessario. Se i bambini hanno fame e vogliono la merenda come rito, benissimo, ma sempre è sufficiente della frutta fresca, spizzicare qualche seme piuttosto che, ecco, ricordiamoci che il nostro affetto ci porta a nutrire esageratamente i nostri bambini, tanto che li vogliamo molto bene, ma anche abbiamo i bambini più cicciottelli d'Europa, quindi li facciamo soprattutto muovere un po' di più. Io direi, più che una merendona, una bella corsa, una bella sgambatona, ecco, che mette tutti d'accordo. Dottoressa Titta, buona domenica anche a lei. Buona domenica a voi. Buona giornata. Per oggi è tutto, io vi aspetto domani, ma soprattutto vi aspetto anche sulle pagine di Obiettivo Salute, dove abbiamo postato i consigli di Alberto Pellai per i primi giorni di scuola. Buonissima domenica da Nicoletta, la vostra salutare ossessione quotidiana.